Filippo Maria Ricci, allora, quizzone cinematografico, devi dirmi chi è questo. Che? Che? Da buono che mi stacchi l'orecchio. Te stacco pure i quattro dita d'ogni mano, così dopo te ne vai a rubare coi tuoi pollici, hai capito? Ma perché, coppa? Ieri sera ti sei fregato qua a borsa di qua amico mio, quel milanese, che c'aveva 100 milioni dentro. 100 milioni? Tiri fuori. Ma te pare se c'avevo 100 milioni stavo rubando un portafogli qui a San Pietro ai pellegrini? Ma che dici? Ah, non c'ha ragione, voce. Che ha detto 100 milioni? 100 milioni. C'erano dentro la borsa. 100 milioni dentro la borsa. 100 milioni veri? È veri sì. Quant'erano? 100 milioni, oh. 100 milioni. Hai capito, capuccio? Quant'erano? 100 milioni. Allora chi è? Facilissimo, Filippo. Bambole Thomas Milan, facile. Ma è chiaro che sì. Ma anche perché Mister 100 milioni sta dalle tue parti a Madrid. Ovviamente, super bene. Ma ho scoperto che non è l'acquisto più caro della storia, perché parametrato all'inflazione media spagnola, mi hanno spiegato secondo calcoli molto dettagliati, CR7 rimane il più caro di tutti. Cristiano Ronaldo. No, insomma, non sono tanto d'accordo. E quello, ovviamente, sai, io seguo il Real Madrid, che è un club che ha la propaganda che neanche il Minkul Pop. Sì. Per cui hanno, l'altro giorno il giornalista preferito di Florentino Perez è andato in televisione a dire che Bale guadagnerebbe 5 milioni netti all'anno, che al Tottenham ne prendeva 6. Sì. E, no, queste cifre sono, cioè, 100 milioni per me sono più. È chiaro che puoi sempre considerare il momento del cambio della sterlina, quanto vale, quanto valeva quando è arrivato. Però diciamo, così, per grandi numeri, per me è il giocatore più caro della storia, e così voleva che fosse Daniel Levy, che è un negoziatore di ferro, e soprattutto ha anche lo stipendio più elevato della rosa del Real Madrid, 11 come il suo numero di maglia, e anche le partite di Champions, ricorre questo numero, ha giocato 11 partite di Champions, guadagna 11 milioni di netti e vestirà l'11 di Papo Ghento. Detto questo, adesso Ronaldo, se mai si siederà al tavolo della trattativa con Real Madrid, lo farà ovviamente con un incentivo in più. Beh, certo, anche perché per i professionisti sappiamo che hanno dato al gallese. Un gallese che così prende più di me, ma non sia mai nella vita. Ma poi sappiamo bene come il parametro dello stipendio sia importante per l'ego degli sportivi. Valgo quanto vengo pagato, questo è una regola assoluta negli Stati Uniti, ma vale anche da noi per le rockstar del pallone. Certo che Real ha anche fatto cassa, con i napoletani, con Ozil che è andato all'Arsenal. Ha incassato più di 100 milioni, 110, 120, adesso che ne ha presi quasi 50 per Higuain, oltre 60 dal Napoli. Ha fatto, per me alla fine è un mercato interessante. Io non avrei mai venduto Higuain, Higuain sì, anche, ma volevo dire Ozil. Sì. Ozil non l'avrei mai venduto perché è giovane, l'avevano pagato poco, certo ci hanno fatto una bella plusvalenza, l'hanno pagato 15, venduto a 45 più bonus. Però 24 anni, il numero 10 della Germania, non si sa come va a finire, per me è un passo indietro e rischia di perdersi Ozil andando all'Arsenal. Però Ozil potrà, non so, anche lottare per il pallone d'oro, se diciamo, se uno considera la Germania. Però è uno, sono i primi effetti collaterali dell'arrivo di Bale. Bale guadagna 11, Ozil guadagnava 5. Certo. Ma Mustafà è andato più volte a battere cassa al Bernabeu, che magari si presentava con Bermuda, insomma così, e non è stato gradito. Florentino Perez non lo amava e alla prima occasione l'ha venduto. Ancelotti l'aveva sostituito due volte, domenica non ha messo neanche un minuto. È un sacrificio che poi il tempo ci dirà. Voglio dire, il Real Madrid ha venduto ben 3 giocatori che hanno conquistato il triplete: Schneider, Eto'o e Robben. Insomma, quindi attenzione a venderli. Da qualche altra parte funzionano, c'è una discreta storia. Sì. Vedremo un po'. Io così non l'avrei venduto perché comunque è un giocatore, soprattutto poi ha già venduto un Kakà. Insomma, è di grande qualità, però ha fatto delle scelte, puntano tutto su Isco, c'è Di Maria, c'è Bale, Ronaldo, Benzema, e questi sono un po' comunque ovviamente resta una grandissima rosa, appunto, che non è poca roba. A fronte di una grande spesa c'è stato anche un ottimo guadagno. Certo, poi Platini diceva questo, le solite cose, no? Abbastanza banali, questo mercato non, così non va, il Real Madrid non può prendere un giocatore per 100, meglio se ne prende 3 per 30. Sono vogliono ma fare. Sì, ma insomma, cioè, il Real Madrid guadagna 500 milioni in cassa, più di 500 milioni l'anno, cioè ha certo, degli asset enormi. Certo, ma è filosofia spicciola, un po' populista questa. Oggi, ma se una banca, se deve dare i soldi a Ricci e Genta, può anche pensarci, ma se li deve dare al Madrid, è il suo mestiere che gli dia. Chiaro, è un affare, è un affare, è un affare per chi li presta. La banca cosa fa? Cerca di fare il suo mestiere. A proposito, comunque, scusa, Phil, a proposito di quelli che dovrebbero fare, che potrebbero fare il loro mestiere o forse no, ieri in Spagna è successa una cosa molto divertente. Ti faccio sentire un altro film, indovina quale. Vendi, Leopardi, Bergoglielli, Bergoglioni. Togli una curiosità, ma tu sei veramente mediatore di calciatori o no? Non si vede, no, che sono. Come io ho conosciuto Cristoforo Colombo, l'avvocato di Falcao. E quello è leggermente diverso, è più credibile. Lui veste più classico. E non è che tu invece di fare, no, il commerciante, guarda, di calciatori, fai il commerciante di culi. No, per sapere così, no, io me ne vado. Non ti preoccupare, Gigigno, ho le mani impasta dappertutto. Vamos. Anche questa la sai, no? Oronzo Canà? Bravissimo. Sento malissimo, perché sono in treno, sento malissimo. Oronzo Canà, naturalmente l'allenatore nel pallone, Gigi Andrea che lo portano in Brasile a prendere i giocatori. Ieri negli uffici della Liga si è presentato un terzetto di personaggi, sì, molto ci ben sono vestiti. Delle foto anche qua, sì. Molto ben vestiti con valigetta. Sai quale potevi mettere di clip? Quello che voleva vendere la Fontana di Trevi, no? Sì. Era Totò. Sì, certo, era Totò. Sono arrivati lì e hanno detto: siamo emissari, buongiorno, siamo gli emissari del Manchester United, abbiamo qui i soldi per liberare Ander Herrera dall'Athletic Bilbao e portarlo al Manchester United. Sì, non era vero nulla, però uno si chiede, ma vuol dire, che cosa speravano? Cioè, loro erano lì per pagare, non per prendere soldi, quindi che truffa volevano fare? Cioè, non è che dice, non è che andavano, sono andati in Liga a dire: allora ci date i 36 milioni e poi li portiamo dall'altra parte. No, teoricamente dovevano versare loro questi 36 milioni, quindi non so che truffa avessero in mente. Non è chiaro, i contorni non sono tanto chiari di questa storia. Fatto sta che erano, no, capito, non è che loro venivano a prendere soldi, venivano, certo, a portarli, venivano a portarli, però non erano chiaramente emissari del Manchester United, no, e nessuno li conosceva, però dico che ci facevano, sì. Quindi se vogliono versarli, strano, cioè, non è, sarebbe stato, diciamo, la truffa, facciamo anche così in se ne parlava degli insieme, nessuno ci capisce, perché poi effettivamente sono degli avvocati questi, però vabbè, comunque se li trovi diciamo, ti mando l'Iban, tu gli dai il tuo, e se gli avanza qualcosa noi ci siamo. Questo forse dovevano rivedere un Iban da qualcuno e vedere cosa potevano farci. Grazie Phil. A voi, ciao. Filippo Maria Ricci dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport e per noi. Auguri a tutti. Giorgio da Prato, buongiorno, grazie. Buongiorno e buon compleanno, naturalmente. Grazie, alla trasmissione. Grazie. È sempre un piacere sentirvi. Io una disamina veloce delle prime posizioni, a mio parere, dopo il mercato. Io vedo la Juventus che è sempre superiore a tutti, perché è una squadra che ha un valore omogeneo e forte in tutti i reparti, è una difesa fortissima. E dopodiché, secondo me, Napoli e Fiorentina hanno fatto i progressi più evidenti, in particolare perché sono simili, perché tutte e due hanno qualche problemino dietro, hanno da assestare la difesa, ma in attacco, in particolar modo la Fiorentina, io poi sono di parte, sono tifoso viola, però un centrocampo con la qualità che già aveva, con l'aggiunta di un giocatore esperto, Ambrosini, e una coppia come quella davanti, Gomez e Rossi, secondo me Gomez e Rossi è una coppia da Real Madrid, una coppia da è una grande coppia, è una grande coppia, esatto. Ma poi soprattutto, Giorgio, in questo mercato i ragazzi intesi come presidenti ci hanno fatto divertire, perché quanti anni erano che non si vedevano folle più o meno ceramiche, ovviamente parametrate agli abitanti abituali dei nostri stadi, alla presentazione di giocatori. Abbiamo visto la Fiesole piena per Mario Gomez, abbiamo visto il Napoli impazzire per Higuain, abbiamo visto la Juventus e il popolo juventino impazzire per Tevez, abbiamo visto ieri i nostalgici di Kakà tutti a sentire quella canzone che non voglio più sentire, che ieri mi è rimbombata nelle orecchie per tutto il giorno, grandi amori eccetera eccetera, però è stato un mercato alla fine divertente. Quindi lei, ma no dai, ma ti prego, ma toglila, sennò troviamo Gagliani in lacrime qua sotto, dai, basta, per favore. Giorgio non c'è più. Stavamo parlando della Fiorentina. 800 24 0024, numero verde. Marco da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie per avermi invitato, auguri. Auguri anche a lei, ma mi fa le pagelle del mercato, perché è il grande classico dell'erotismo calcistico di fine estate. Voto più alto a chi? Al Napoli. Voto quanto? 8? Anche 9. Sono d'accordo, io farei 8,5, ma sono d'accordo sul voto più alto al Napoli. Poi Juventus? Sì. No, poi sì, Juventus, dai. Sì. Juventus, mezzo Juventus, punto in meno? 8, sì. 8, poi? Poi metterei... poi c'è Fiorentina. Sì, io ci metterei anche la Roma. Io metterei, Roma. Metterei Fiorentina e Roma con lo stesso voto, sono due squadre estremamente interessanti. Il voto alle milanesi qual è? Ma le milanesi direi uguale, metterei un 6. Sono d'accordo. Sì. Sì. Sono d'accordo. Di cosa voleva parlare prima che lei la disturbassi? No, io sono milanista. Sì, sì, sono contento perché finalmente non vedrò più Antonini nel Milan. Sarà un bravissimo ragazzo, ma non mi è mai piaciuto come calciatore. Ma sì, poveretto. Sono altrettanto contento che è andato via anche Boateng. Aspetto con ansia che vada via Abbiati e Abate. Ma perché? Ma mi spiega perché in tanti ce l'hanno con Abbiati, insomma è uno della vecchia guardia. Visti i portieri che ci sono in giro, non mi pare ci sia poi di meglio o così tanti giocatori. Fiorentina per esempio non ha un portiere affidabile, questo è un grande difetto. Ma Abate, ma perché? Abate a me mi dà fastidio quando gli danno la palla e lui invece di guardare avanti guarda dietro e la ridà dietro. Poi non ha coraggio, non ha dribbling, cioè lui è un'ala, lui è un'ala da contropiede che lo lancia e va. Perché non rischia un dribbling, guarda sempre dietro, dà la palla indietro. Ma io trovo... Fa il lavoretto proprio. Ma Marco, non lo so, io su questo non sono d'accordo, lei lo sa, perché secondo me ci sono pochi giocatori di fascia nel calcio italiano e non solo che riescono a crossare la palla in corsa come Abate. È chiaro che non è un funambolo, saltare tre uomini non è il suo mestiere, però mi pare che il suo mestiere anche in fase difensiva abbia imparato a farlo egregiamente. Questo è il mio pensiero, ma credo anche quello di Prandelli che... Infatti lo convoca ripetutamente. Tutti convocati. Bueno, magari io spero che sì, che tutti e due lottiamo per la vittoria, per il mondiale, ma sinceramente mi sa che tanto Marquez come Pedrosa saranno tanto forte e ci metteranno le cose molto molto complicate. Sì, con Franco Pedrelli, autore di questo programma, Roberto Scaltretti, regia, un anno, 247 puntate di Tutti Convocati, e di qui è passato, come avete sentito, anche Jorge Lorenzo. Domenica mi ha fatto venire i brividi, credo anche a molti di voi che amano il moto mondiale, e credo che insomma non vedo l'ora che sia il giorno di Misano, tra una decina di giorni, domenica l'altra, a Misano secondo me lì si deciderà quel che manca per il titolo mondiale, che andrà a Marquez, ma sarà ancora battaglia, ne sono certo. Grazie a tutti per gli auguri che arrivano da... Allora, io adesso mi faccio leggere gli sms che scrivono gli ascoltatori. Dopo tutto sto Venditti, se non compensate almeno con gli Iron Maiden, giuro che non vi ascolto più. Lorenzo da Trieste, basta con sto Venditti, ha rotto. Eraldo da non so dove, ma hanno ragione. Se no Gagliani poi si mette a piangere. Poi lo consolate voi, ragazzi. Sbaglio o ho gli occhi un po' lucidi? Li avevo nel 2009 e ce li ho anche nel 2013. Ha detto si vive di sensazioni, di emozioni. Ma si vive di amore. E quello per Kakà è un amore che tutti noi tifosi del Milan abbiamo. Ma che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Peace and love. Sembra di essere nel... quasi quasi mettiamo, non so, Simon & Garfunkel. Peace and love, pieno clima anni 60 per il ritorno di Kakà. Vabbè, dai, Mario, provincia di Roma, buongiorno. Ciao, senti, ciao. Scusa, ti volevo... era una domanda, visto che ti reputo un competente, poi al limite la puoi passare pure se fosse che chiama qualcuno più competente di noi. Ma secondo il tuo parere, l'Inter da gennaio con l'arrivo di Toir potrebbe dare fastidio a queste grosse squadre tipo Juve, Napoli e quanti altri? Ma insomma, è una domanda estremamente ipotetica, non so cosa c'entra la competenza con questo. Ma se arriva il sottoinv, porta soldi, sì, fanno un mercato, anche quello di gennaio, che come si suol dire, ma è di paratore, però insomma. Io non credo che la squadra verrà stravolta da Toieri. Intanto vero che se ne riparla tra un po'. Sembrava fosse questione di ore, di giorni, di minuti, di secondi, di quello che volete per l'arrivo di Toieri a Milano, invece non è così. Moratti resterà in sella fino a gennaio e poi vediamo. Tuir non ha mai detto arrivo, compro, spacco tutto, non ha mai detto arrivo, compro Messi e Cristiano Ronaldo, questo non ha mai detto, né in estate né in prospettiva futura, dunque mi sembra uno che può arrivare sì, ma deve valutare la situazione con calma. Questa storia poi più passa il tempo meno mi convince, storie come queste più passa il tempo meno sono, non so, plausibili, credibili, più alimentano dei dubbi, dei sospetti, perché abbiamo sempre detto che insomma quello che ha Edina Rivieri è il papà di Toier, che è a capo di questo impero e al quale non risulta fregare qualcosa del calcio italiano, dell'intro del calcio in generale. Quindi è un affare del figliolo, non so con quali idee, prospettive e ambizioni e amore, per dirla alla Gagliani, possa arrivare Toieri. Credo che questo sia un dubbio anche di Moratti, tant'è vero che fa il temporeggiatore Massimo Moratti. Pietro. Lorenzo, va meglio così? Messi. Pietro, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Carlo, innanzitutto volevo fare gli auguri alla trasmissione. Grazie. È veramente bella. E poi volevo fare un attimo una pausa nel calcio per parlare del tennis italiano, sì, femminile. Siamo alla vigilia della seconda semifinale agli Open consecutiva e quest'anno abbiamo la Pennetta, abbiamo la Vinci. Quindi l'ennesimo successo del tennis femminile, ecco. Sì. Quindi, la Pennetta si è ripresa dopo un anno veramente duro di infortuni. Vero, vero. Io l'avevo vista anche a Wimbledon in condizioni molto lontane da quelle ottimali. Era molto lontana dall'essere la vera Flavia Pennetta. Adesso anche fisicamente mi sembra tornata, mi sembra una giocatrice diversa. Poi sa, è sempre molto, molto bello vedere comunque un derby italiano a così alto livello e su quei campi che sono tra i più prestigiosi del mondo, quindi certamente ci avviciniamo a un derby che va alla semifinale. Certamente ieri non riesco a fare il tifo per l'uno o per l'altra, perché Roberta Vinci è una grande lottatrice, Camila Giorgi è il futuro ed è un futuro che mi sembra splendido per il tennis italiano. Ma direi che anche gli ometti, considerata la qualità che c'è in giro, abbiano fatto bene o molto bene nei tornei del Grande Slam quest'anno. Chi invece sembra davvero avviato sul viale del tramonto, a proposito della tristezza di questi tramonti di grandi campioni, è Roger Federer, che è stato malmenato tennisticamente parlando da Robredo. E insomma, ripeto, vedere, forse avete ragione voi su Valentino Rossi, anzi probabilmente sì, io mi tengo il mio tifo anche cieco se volete, però non è più quello di prima. Roger Federer, guardiamo i risultati, guardiamo come giocano, non è più quello di prima. E adesso c'è Kakà, sarà quello di prima? I miei dubbi ce li ho e me li tengo. 800 24 00 24 il numero verde. Ho parlato di Moratti prima perché sapete che io ho un debole per alcuni presidenti. Il mio idolo assoluto è De Laurentiis e questo è indiscutibile, però io al lunedì senza Moratti sotto gli uffici della Saras non posso rinunciare, non so che farci. Siamo alla seconda partita di campionato, può arrivare molto avanti se continua a giocare con questa concentrazione e soprattutto così bene. Presidente, le chiedo, è un po' un peccato l'Inter-Juventus subito dopo la sosta per le nazionali? No, quando capitano capitano queste partite, sono sempre belle comunque sia, va bene anche così. Ma cosa stava passando sotto gli uffici della Saras? Il veicolo che spazza le strade? Allora, Massimo Moratti il lunedì mattina con l'occhiale più o meno di sbieco secondo il risultato della domenica. Se l'Inter ha vinto due partite come in questo caso è squadra da scudetto, se invece le ha pareggiate un po' meno, se le ha perse, allora l'allenatore è sempre al suo posto? Rimane solido? Come si fa a rinunciare a questo? Allora, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, il voto del mercato dell'Inter è quello di Mazzarri, che mi tengo la riserva sull'Inter, che è una squadra che faccio fatica a leggere. Ha giocato una grande partita a Catania, mi sembra che Mazzarri, visto come ha giocato Jonathan, oggetto misterioso per due stagioni, mi sembrava davvero un brocco. Visto come ha giocato Jonathan, visto come ha giocato Ricky Alvarez, che pure è qui da parecchio tempo, ebbene, mi viene il dubbio che Mazzarri abbia davvero la bacchetta magica in tasca. Alessandro, provincia di Cuneo, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, vorrei commentare il mercato della Lazio. Sì. Che ritengo sia fallimentare. Soprattutto in considerazione del fatto che serviva una punta e se ne è tolta una, che sarebbe Kozak. Sì. Infatti quando è partito Kozak che ero praticamente certo che fosse fatta per il Mazza, poi è saltato l'affare turco all'ultimo momento. In effetti alla Lazio si è aperto un problema, io credo, da questo punto di vista, perché gli attaccanti a disposizione del pur bravissimo Petkovic, un altro che ho sospetto qualche volta di avere la bacchetta magica in tasca, ebbene, per la Lazio un problema. Però attenzione al mercato, non leggiamolo soltanto alla scorrendo la casellina arrivi, perché per un club come la Lazio comunque trattenere un giocatore come Hernanez è ad esempio tanta roba. Ci sono gli Ulic, è un altro giocatore che per ruolo, per caratteristiche eccetera, non è che ce ne siano tantissimi in giro. Radu pure è un altro di questo tipo, quella fascia sinistra è molto forte la Lazio. Candreva è titolare della nazionale, quindi attenzione quando leggiamo, secondo me è mio parere personale, se leggiamo il mercato di una squadra non facciamolo soltanto chi è arrivato, allora questo vabbè, ma poca roba, mercato fallimentare, no, non sono d'accordo su questo. Quindi il mercato della Lazio secondo me nel complesso merita un 7. Tutti convocati. Due anni fa dove eri? Due anni fa ero in un letto d'ospedale a curarmi da un cancro, da un tumore al sistema linfatico, e quindi ero nel punto più basso, più buio della mia vita. Un anno fa dove eri? Un anno fa ero appena uscito dal trapianto di midollo osseo e avevo, diciamo, un po' più di speranza di vivere, però di sicuro ero molto molto molto molto debole e non credevo di che sarei mai potuto tornare a giocare a pallavolo, che era la mia vita. Domenica sera dove eri? Ero sul podio dei campioni d'Italia, del massimo campionato di Serie 1, con la squadra più forte che c'è adesso al mondo, e ho giocato la partita da titolare e sono stato anche votato un miglior giocatore della finale. E questa era un'altra storia che abbiamo raccontato in questo anno di tutti i convocati, quella di Giacomo Sintini, eroe dello scudetto del volley. Allora, quando vogliamo parlare di tennis, lo facciamo sempre con piacere, di solito facciamo un numero di Sky e risponde Stefano Meloccaro. Ciao Stefano. Eccoci qua, bella la storia di Jack Sintini, sì. Devo dire che insomma, è stata una delle più belle dell'anno. Meravigliose. Ascolta, ma vabbè, ho anticipato il tuo intervento con un ascoltatore, tu puoi senz'altro rispondere con maggiore competenza. Sì. Giorgi è il futuro, Roberta Vinci presente ancora? Sì, anche Flavia Bennetta però non trascurerei, perché insomma sai che adesso c'è il derby e una va in semifinale, per cui hanno entrambe la super occasione della vita. nel senso che hanno tutte più di 30 anni tutte e due, perciò alla Vinci non capiterà probabilmente mai più di avere una pennetta per andare in semifinale di Slam, ma alla pennetta quando ricapita di avere una Roberta Vinci per andare in semifinale di Slam, per cui è un derby molto interessante, però siamo tranquilli perché la Giorgi ha i colpi e non ha la tattica, no? Per cui è già molto forte adesso, ma se mette a posto un po' di testolina sul campo può diventare veramente degna erede delle due che abbiamo appena citato, senza dimenticare Sarita e Rani. Sì, e poi è bellissima, lasciamelo dire. Poi tutto sommato, noi l'abbiamo avuta intervistata e in collegamento con noi più volte, cioè il fisichetto giusto, cioè il visino da pin-up. Come no? Insomma, c'è veramente tutto. L'unica cosa è che bisogna trovarle un tattico che la consigli un po'. Perché... Sì, può creare margini di miglioramento importanti. Sulla pennetta mi domando, dopo averla vista a Wimbledon in qualche match faticosissimo, anche vinto in maniera molto stentata, eccetera, mi sembrava davvero giù dal punto di vista fisico. Adesso sto rivedendo anche, ripeto, fisicamente, lo che trega dal punto di vista tecnico, la giocatrice che era. Beh, a Wimbledon lei era proprio molto a digiuno di match, no? Perché aveva ripreso da poco, dopo i 6 mesi di interruzione per l'operazione al polso, per cui lì proprio lei stessa diceva: sto andando oltre le mie aspettative, non sapeva neanche lei quanto poteva durare, quanto poteva giocare. Adesso ha giocato un po', si è riallenata bene, ha ritrovato l'abitudine alla gara e infatti, guarda caso, i risultati sono venuti. E poi c'è questa cosa meravigliosa del derby tra due ragazze che sono cresciute a 50. Questo non è un derby per andare, quello tra Vinci e Pennetta, non è un derby per andare in semifinale allo US Open, è un derby Lecce-Taranto, Brindisi-Taranto, sono cresciute veramente a 50 kg, cioè si sono incontrate la prima volta che avevano 9 anni nei tornei giovanili pugliesi, capito? Perciò è una storia lunga, è vero, sì. Bravo Stefano, hai fatto benissimo a ricordarlo. Un'ultima cosa, tu sai quanto mi mettano tristezza i Sunset Boulevard, no? I viali del tramonto. Dillo a me, so dove vuoi arrivare. Sai dove voglio arrivare? Allora, su quel viale è più avanti Kakà o Roger Federer? Beh, oggi Federer, anche perché la diversità è quella di parte emotiva, no? Cioè Kakà è tornato a sorridere dopo 4 anni. E dunque quello potrebbe far molto, perché le motivazioni nello sport sono tutto. Cioè, secondo me Kakà sarà meglio di quello che tutti noi ci aspettiamo, perché intanto perché non è usurato, perché ha giocato pochissimo negli ultimi tempi, e poi perché comunque ha veramente tanta voce, è un uomo felice. Oggi Federer è un uomo triste, perché sa bene che il Sunset Boulevard è iniziato e anche da parecchio, e anche se io sento molti commenti di tifosi che dicono: no, deve smettere subito, non ci faccia vedere, è uno scempio vederlo così. È la cosa più difficile per uno sportivo, Stefano, soprattutto se è stato un campionissimo. Capire, intuire il momento, allora, è l'ultimo grande gesto del grandissimo fuoriclasse. Ma non riesce quasi a nessuno. Però una cosa ti vorrei dire, poi se hai fretta ti saluto, io starei con te tutto il pomeriggio, ma sento dire da tante parti: non deve rovinare il ricordo che abbiamo di lui. Ecco, questa è una colossale baggianata, nel senso che se noi pensiamo a Borg, nessuno si ricorda di quando rientrò per giocare quei 6 mesi sciagurati, tutti si ricordano 6 Roland Garros e 5 Wimbledon. Se io penso a Sampras, non penso alla partita che ha perso con George Buffel a Wimbledon, penso a 14 slam vinti e a un fenomeno. Di Roger Federer tra 20 anni tutti si ricorderanno il dio del tennis e nessuno penserà che ha perso con Robredo, insomma, diciamocelo chiaro e tondo, dai. No, questo è vero, però insomma vedere uno così che è una leggenda proprio per quel ricordo, preso a schiaffoni non ti dico dal primo che passa, ma quasi, perché lasciamo stare Borg, che è stata una tristezza pazzesca. Io mi ricordo anche l'ultimo Michael Jordan con la maglia dei Washington Wizards, mi ricordo anche Schumacher che poteva farne a meno, Armstrong non ne parliamo, insomma quelli che hanno fatto grandi imprese, poi quando li vedi malmenati e maltrattati in questo modo mettono un po' tristezza, sì. Tutto vero, però questa è una tristezza istantanea, questa voglio dire, cioè una tristezza che non tocca la storia, oggi, domani e dopodomani. Poi capito, nel museo dello sport si ricorderà di Federer ben altro che la sconfitta contro Del Bonis, capito? Sicuro, di questo sicuro, questo sicuro. Grazie Ste. Grazie Carlo. Alla prossima, Stefano Menoccaro da Sky. Chiudiamo naturalmente con grande piacere con gli ascoltatori. Mirko Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao Carlo. Ciao Mirko. Volevo fare due considerazioni, volevo sentire la tua opinione anche. Il primo, che Kaká è stato comprato anche per il buon potere di tutti i Kaká dipendenti che non sono più andati allo stadio dalla sua mancanza. Dal 2009 in poi c'è stato un... Mirko, questo l'ha detto Galliani, ed è stata una frase molto importante, non sto scherzando, è stata una frase molto importante per spiegare questa, in parte almeno questa mossa. Ha detto: adesso speriamo che il popolo degli orfani di Kaká torni allo stadio. Ha detto proprio questo, gli orfani di Kaká, che erano quelli che dal 2009 in poi non se ne erano andati, determinando un crollo ma pesantissimo gli abbonamenti del Milan, e non sono più tornati quelli, nemmeno con Ibra, nemmeno nel giorno degli scudetti. Dimmi. Ecco, io sono un tifoso del Milan, per, logicamente, abitando a Venezia, non ho mai preso in considerazione di fare l'abbonamento. Sì. Però qualche partita le vado a vedere. Mm. Ad esempio, sono andato a vedere i preliminari di Champions, sono andato su e per prendere 3 biglietti decenti ho speso 300 euro. Io non posso andare tutte le domeniche a spendere con la mia famiglia 300 euro per andare allo stadio. Certo. Se cominciassero a mettere i biglietti a 20 euro, quelli popolari, a 40, un primo anello discreto, allora che lo stadio si riempirebbe da solo, non occorrerebbe i richiami delle allodole perché si riempia. Perché noi tifosi milanisti eravamo 60.000 anche con 1.000 a Cavese. Sì, questa è un'altra pagina di leggendaria, no? Se vogliamo, però, visto che stavamo parlando di leggenda, questo è tutto vero, e questi sono in buona parte uno dei motivi per cui la domenica i nostri spettacoli sono, dal punto di vista della coreografia, della cornice che sta intorno alle partite, spesso molto deprimenti. Quindi ci diciamo: ma la gente non va allo stadio, ma per forza. Allora adesso manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione del compleanno, tornare sul discorso allo stadio devono tornare le famiglie, perché questa è una stupidaggine clamorosa, perché non è mai stato un luogo per famiglie. A maggior ragione adesso che costa molti soldi e ci sono gli stessi problemi: gli stadi sono inospitali, c'è spazzatura sonora e non solo, quando non di peggio, eccetera eccetera. Uno dei motivi è anche il fatto che i biglietti sono eccessivamente cari anche per il contesto in cui si svolge lo spettacolo. Marco Bergamo, buongiorno. Certi amori non finiscono. Vai, vai avanti. No, vai avanti, adesso vai avanti. Per punizione, no, vai avanti. Ti stavi disabituando, te l'ho fatto per non farti perdere il ritmo. Sei un grandissimo. Ascolta. Però adesso, per punizione, vai avanti e la canti tutta. No. Diretta nazionale, ma invisibili, indissolubili. Basta, allora. Grande Marco, bravo. Grande. Dimmi. Allora, moto mondiale. Sì. Io sono un rossiano come te, forse anche di più. Però volevo chiederti: secondo te Marquez attualmente è più forte del miglior Valentino? Di quel che è stato il miglior Valentino, secondo te? Guarda, io mi fido molto di Roberto Ungaro, che conosci bene, direttore di Riders, ex pilota, telecronista del moto mondiale per molti anni, e ci ha spiegato i motivi anche tecnici per cui Marquez è veramente una nuova era rispetto a Valentino. Sono quasi non paragonabili. Marquez è il primo pilota che esce dalla Moto2, ha uno stile di guida, un modo di guidare tecnicamente molto diverso e meraviglioso, qualcosa di davvero nuovo. Grazie a tutti, grazie a Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Dopo la puntata del compleanno, domani alle 2, ci sentiamo qui. Io adoro la tua trasmissione perché posso darti ragione.